Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Due brevi informazioni di servizio: il nostro sito radio24.it e il mio blog, lo conoscete ormai, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore oppure sul sito di Radio 24 sotto il mio profilo. Peccato non aver inserito nel mio libro, che come sapete è in questi giorni in edicola, Economia criminale, storie di capitali sporchi e società inquinate, in vendita con il Sole 24 Ore. Dicevo, peccato non aver inserito in questo libro la splendida storia che andremo a raccontare oggi, che viene dalla Calabria. Voi sapete che ho dedicato un ampio spazio alla Calabria, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con un imprenditore che resiste giorno dopo giorno all''ndrangheta, si chiama Gaetano Saffioti. Ebbene, questa storia proviene dalla provincia di Crotone, e per la precisione da Isola di Capo Rizzuto, uno splendido comune che ha un sindaco molto in gamba, molto coraggioso, che nel passato, il comune sto dicendo, e il territorio, è stato devastato e purtroppo è ancora in gran parte influenzato dalla presenza di una delle peggiori cosche calabresi, il clan Arena. Ebbene, che cosa accade a Isola di Capo Rizzuto? Che il sindaco, una donna, evviva, Carolina Girasole, ed un prefetto tra quelli che possiamo appellare con la P maiuscola, Vincenzo Panico, hanno deciso di promuovere una splendida iniziativa. E di questa iniziativa noi ne parleremo proprio con il sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Carolina Girasole. Buongiorno, dottoressa Girasole. Salve, buongiorno. E con il prefetto di Crotone, Vincenzo Panico. Buongiorno, signor prefetto. Buongiorno a lei. Allora, sindaco Girasole, io vorrei che fosse lei a presentare questa storia che sta interessando il vostro comune, che se io dovessi lanciarlo con un lancio d'agenzia ANSA, la chiamerei così, probabilmente le strappo un sorriso. Finocchi e Girasoli, spieghi lei il perché. Finocchi e Girasoli, vabbè, non è stato proprio così, piuttosto finocchi, papaveri, fiori, profumi intensi e colori molto belli quella mattina su quel terreno. Benissimo, allora raccontiamolo. Era, vabbè, una mattina di sole, una mattina di maggio nel nostro territorio calabrese, quindi molto caldo, a pochi metri dal mare, quindi uno scenario perfetto. E così, grazie anche al prefetto Panico, come ha detto lei, e a un gruppo di persone di buona volontà, quelli di Libera, Don Luigi e qualche altro ragazzo delle associazioni, ci siamo recati a fare un giorno di festa su un terreno confiscato, una raccolta simbolica. Ecco, lei lo dice come se fosse una cosa normale e tranquilla non lo è, perché voi avete raccolto i finocchi su dei terreni confiscati alla Cosca Arena, e non è un gesto così normale nella sua terra, non perché manchino le persone di coraggio, ma perché purtroppo l'influenza delle cosche è pesante. Quindi è un gesto molto importante, signor sindaco. Ecco, ma le chiedo, questa raccolta che avete fatto, questa raccolta di legalità, come dice nel suo sito anche Libera, quanto, diciamo così, è stato anche spinto e sospinto questo gesto dalla popolazione di Isola di Capo Rizzuto? È questo che vorrei capire. Allora, dobbiamo fare una piccola premessa. La gestione dei beni confiscati già da alcuni anni avviene qui in questo comune. Ci sono molti appartamenti confiscati alle consorterie mafiose che sono utilizzati dalle associazioni, per cui è un discorso che in parte è già iniziato. All'interno di quelle stanze dove prima la mafia si organizzava per i propri affari, adesso ci sono associazioni di volontariato anche importanti, la Misericordia, la Procif, che sono intervenuti anche nei terremoti nazionali, sono andati anche all'estero, per cui in quelle stanze c'è già un inizio, un percorso di legalità iniziato alcuni anni fa. I terreni sono un discorso ben diverso per la mafia, perché ancora sono beni produttivi, quindi interessano in maniera diversa, e quindi questo è stato la cosa più importante. Assolutamente, ed è per questo infatti che ne parliamo, anche perché quei terreni, i beni immobili, sono il segno del comando, del potere per queste cosche. Lavorarci è uno sfregio per queste persone, se tali possono essere chiamate, inenarrabili. Io ricordo quando raccontai storie simili a Corleone, ebbene, la popolazione schierata per la legalità aveva un occhio di riguardo nei confronti dei mafiosi che dall'altra parte del confine guardavano il loro operato, e la sfida era anche negli occhi. Devo dire, aveva un gusto straordinario, anche per me che l'ha raccontata poi sul giornale. Prefetto Panico, allora, uno è abituato a pensare che le prefetture siano luoghi in cui lo Stato è soltanto carte e burocrazia. Lei è esattamente il testimone contrario, perché si è fatto parte attiva. Quant'è importante il ruolo della prefettura di Crotone in queste iniziative? È un ruolo assolutamente necessario. Normalmente lo è già come collante istituzionale della prefettura, ma soprattutto nell'azione di contrasto all'andrangheta, che è inutile negarlo, è presente storicamente e in alcune aree fortemente radicata. È necessaria questa azione di stimolo, di coordinamento della prefettura, soprattutto quando, come nel nostro caso, la cosca viene colpita, e questo sta accadendo sempre più spesso, nei propri patrimoni, con la confisca dei beni, ed il segnale è davvero importante, perché restituisce alla collettività beni frutto del malaffare e della protervia delle consorterie. Giustamente quindi il giorno della raccolta ha avuto l'impatto mediatico che meritava, perché era la prima volta che un frutto, erano i finocchi, sono stati raccolti. E alla presenza, io lo devo sottolineare, di tanti giovani, quelli sui quali la Calabria mi consente di investire, la parte sana, il futuro, quelli che ci credono. E questo è un aspetto talmente importante che costituisce uno stimolo ulteriore anche ad operare in questa terra straordinaria, che non assolutamente bisogna fare in modo che una minoranza, perché si tratta di minoranza, la infanghi fino a questo punto. Assolutamente d'accordo con lei, prefetto. Ricordiamo che il prefetto Panico viene da una zona come quella della Campania, dal napoletano, e quindi è abituato, come dire, anche a confrontarsi con realtà territoriali diverse, con criminalità organizzate diverse. Io vorrei fare la stessa domanda al sindaco Girasole e al prefetto Panico, la stessa identica domanda, perché è un mio pallino fisso nelle tante inchieste che ho svolto in questi anni. Due sono gli ingredienti fondamentali. L'uno l'ha messo in evidenza il prefetto Panico, la presenza dei giovani. L'altro lo metto in luce io, cioè la presenza delle istituzioni. Lei, signor sindaco, ha avuto il coraggio di metterci la faccia, ma quanti amministratori locali la seguono nel territorio? Io lancio una provocazione, poi lei mi dirà che io ho torto, ma la lancio lo stesso. A mio giudizio troppo pochi. Mi dica lei. Sì, ogni tanto ho un po' di solitudine, la sento. Quindi è d'accordo con me? Sì, vabbè, in effetti non è molto diffusa questo modo di interpretare il ruolo. Esattamente, quindi sosteniamo, questa trasmissione serve anche per questo, a creare questa catena di legalità fra persone che ci mettono coraggio, e vi assicuro, a Isola di Capo Rizzuto non è facile operare per un amministratore. Prefetto Panico, la stessa domanda anche a lei: quanto è solo e quanto potrebbe essere meno isolato se avesse a fianco tutte le istituzioni, e dico imprenditori privati, istituzioni di credito, gli amministratori, cioè questa catena della legalità che così con grande difficoltà in Calabria invece si forma? Ma non vi è dubbio che la partecipazione collettiva batte il rischio. Io devo dire, lei l'ha sottolineato, vengo da territori nei quali è stato importante l'associazionismo, quello che in Campania sta mettendo oltre che la faccia, le risorse, la professionalità. E devo dire, cosa che non ho trovato in verità molto seguita in questa terra, è uno dei miei compiti, è quello proprio di promuoverlo. Non le nascondo che sto anche con l'aiuto delle forze di polizia, gli investigatori, quelli che fanno tanto per questa terra. Certo. Stiamo cercando di catturare noi il ruolo, quello fondamentale, delle vittime, delle estorsioni. Quelli sono ancora troppo pochi, quelli che denunciano. Noi stiamo cercando di convincerli, però dalla base, evitando che la costituzione di associazioni venga da parte delle istituzioni, ma vogliamo che ci credano loro. Assolutamente. E questa opera che stiamo conducendo credo che a breve ci consentirà di far sorgere anche qui convinte le associazioni, perché bene, sono quelle che abbattono il rischio. Bene, bene, bene, mi piace questa conclusione del prefetto Panico, prefetto appunto di Crotone, che ringrazio. Il prefetto non lo ha raccontato, lo potete leggere nel mio blog. Non era del resto il ruolo del prefetto dirlo, ma Crotone, la provincia di Crotone, è ad altissimo tasso di inquinamento politico mafioso. Di questo ci sono tracce, evidenze, inchieste, e quindi il ruolo suo e il ruolo di sindaci coraggiosi come Carolina Girasole, che ringrazio, è vitale e fondamentale. Viva la loro iniziativa di raccolta di legalità di Isola di Capo Rizzuto. Io ringrazio i miei ospiti, in regia Filippo Auregi, in studio Elisabetta Fusconi, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata.